In giorni stabiliti, Cosimo e Gian di Brughi si davano convegno su di un certo albero, si scambiavano il libro e via, perché il bosco era sempre battuto dagli sbirri. Quest'operazione così semplice era molto pericolosa per entrambi, anche per mio fratello, che non avrebbe potuto certo giustificare la sua amicizia con quel criminale. Ma Gian di Brughi era presa una tal furia di letture che divorava romanzi su romanzi e, stando tutto il giorno nascosto a leggere, in una giornata mandava giù certi tomi che mio fratello ci aveva messo una settimana. E allora non c'era verso, ne voleva un altro. E se non era il giorno stabilito, si buttava per le campagne alla ricerca di Cosimo, spaventando le famiglie nei casolari e facendo muovere sulle sue tracce tutta la forza pubblica d'Ombrosa. Adesso a Cosimo, sempre pressato dalle richieste del brigante, i libri che riuscivo a procurargli io non bastavano e dovette andare a cercarsi altri fornitori. Conobbe un mercante di libri ebreo, tale Orbecche, che gli procurava anche opere in più tomi. Cosimo gli andava a bussare alla finestra e dai rami d'un carrubo, portandogli lepri, tordi e starne appena cacciati in cambio di volumi. Ma Gian di Brughi aveva i suoi gusti. Non gli si poteva dare un libro a caso, se no l'indomani tornava da Cosimo a farselo cambiare. Mio fratello era nell'età in cui si comincia a prendere piacere alle letture più sostanziose, ma era costretto ad andarci piano da quando Gian di Brughi gli portò indietro le avventure di Telemaco, avvertendolo che se un'altra volta gli dava un libro così noioso, lui gli segava l'albero di sotto. Cosimo a questo punto avrebbe voluto separare i libri che voleva leggersi per conto suo con tutta calma da quelli che si procurava solo per prestarli al brigante. Ma che, almeno una scorsa doveva darla anche a questi, perché Gian di Brughi si faceva sempre più esigente e diffidente. E prima di prendere un libro, voleva che lui gli raccontasse un po' la trama, e guai se lo coglieva in fallo. Mio fratello provò a passargli dei romanzetti d'amore, e il brigante arrivava furioso, chiedendo se l'aveva preso per una donnicciola. Non si riusciva mai a indovinare quello che gli andava. Insomma, con Gian di Brughi sempre alle costole, la lettura per Cosimo, dallo svago di qualche mezz'oretta, diventò l'occupazione principale, lo scopo di tutta la giornata. E a furia di maneggiar volumi, di giudicarli e compararli, di doverne conoscere sempre di più e di nuovi, tra letture per Gian di Brughi e il crescente bisogno di letture sue, a Cosimo venne una tale passione per le lettere e per tutto lo scibile umano che non gli bastavano le ore dall'alba al tramonto per quel che avrebbe voluto leggere e continuava anche a buio a lume di lanterna. Finalmente scoperse i romanzi di Richardson. A Gian di Brughi piacquero. Finito uno, ne voleva subito un altro. Orbecche gli procurò una pila di volumi. Il brigante aveva da leggere per un mese. Cosimo, ritrovata la pace, si buttò a leggere Le vite di Plutarco. Gian di Brughi, intanto, sdraiato sul suo giaciglio, gli ispidi capelli rossi pieni di foglie secche sulla fronte corrugata, gli occhi verdi che gli s'arrossavano nello sforzo della vista, leggeva, muovendo la mandibola in un compitare furioso, tenendo alto un dito umido di saliva per essere pronto a voltare la pagina. Alla lettura di Richardson, una disposizione già da tempo latente nel suo animo, lo andava come struggendo. Un desiderio di giornate abitudinarie e casalinghe, di parentele, di sentimenti familiari, di virtù, d'avversione per i malvagi e i viziosi. Tutto quello che lo circondava non lo interessava più o lo riempiva di disgusto. Non usciva più dalla sua tana, tranne che per correre da Cosimo a farsi dare il cambio del volume, specie se era un romanzo in più tomi ed era rimasto a mezzo della storia. Viveva così, isolato, senza rendersi conto della tempesta dei risentimenti che covava contro di lui, anche tra gli abitanti del bosco, un tempo suoi complici fidati, ma che ora si erano stancati di tenersi tra i piedi un brigante inattivo che si tirava dietro tutta la sbirraglia. Nei tempi andati, si erano stretti intorno a lui quanti nei dintorni avevano conti da regolare con la giustizia. Magari poca cosa, furtarelli abituali, come quei vagabondi stagnatori di pentole, o delitti veri e propri, come i suoi compagni banditi. Per ogni furto o rapina questa gente si giovava della sua autorità ed esperienza ed anche si faceva scudo del suo nome che correva di bocca in bocca e lasciava i loro in ombra. E anche chi non prendeva parte ai colpi godeva in qualche modo della loro fortuna perché il bosco si riempiva di refurtive e contrabbandi d'ogni specie che bisognava smaltire o rivendere e tutti quelli che bazzicavano l'entorno trovavano da trafficarci sopra. Chi poi compiva rapine per conto suo, all'insaputa di Gian di Brughi, si faceva forte di quel nome terribile per mettere paura agli aggrediti e ricavarne il massimo. La gente viveva nel terrore. In ogni malvivente vedeva Gian di Brughi o uno della sua banda e s'affrettava a sciogliere i cordoni della borsa. Questi bei tempi erano durati a lungo. Gian di Brughi aveva visto che poteva campare di rendita e a poco s'era imminchionito. Credeva che tutto continuasse come prima, invece gli animi erano mutati e il suo nome non ispirava più nessuna reverenza. A chi era utile ormai Gian dei Brughi? Se ne stava nascosto coi lucciconi agli occhi a leggere romanzi. Colpi non ne faceva più, roba non ne procurava, nel bosco nessuno poteva più fare i propri affari. Venivano gli sbirri tutti i giorni a cercarlo e per poco che un disgraziato avesse l'aria sospetta, lo portavano in guardina. Se si aggiunge la tentazione di quella taglia che aveva sulla testa, appare chiaro che i giorni di Gian dei Brughi erano contati. Due altri briganti, due giovani che erano stati tirati su da lui e non sapevano rassegnarsi a perdere quel capobanda, vollero dare a Gian dei Brughi l'occasione di riabilitarsi. Si chiamavano Ugasso e Bello Re ed erano stati ragazzi nella banda dei ladruncoli di frutta. Adesso giovanotti erano diventati briganti di passo. Dunque vanno a trovare Gian dei Brughi nella sua caverna. Era lì, sdraiato sulla paglia. «Sì? Che c'è?» fece senza levare gli occhi dalla pagina. «T'avevamo da proporre una cosa, Gian dei Brughi». «Cosa?» e leggeva. «Sai dov'è la casa di Costanzo il gabelliere?» «Sì, eh? Cosa? Chi è il gabelliere?» Bello Re e Ugasso si scambiarono uno sguardo contrariato. Se non gli si toglieva quel maledetto libro di sotto gli occhi, il brigante non avrebbe capito nemmeno una parola. «Chiudi un momento il libro, Gian dei Brughi, stacci a sentire». Gian dei Brughi afferrò il libro con ambe le mani, s'alzò in ginocchio, fece per stringerselo al petto tenendolo aperto al segno, poi la voglia di continuare a leggere era troppa e sempre tenendolo stretto l'alzò fino a poterci tuffare il naso dentro. Bello Re ebbe un'idea. C'era lì una ragnatela con un grosso ragno. Bello Re sollevò con mani leggere la ragnatela col ragno sopra e la buttò addosso a Gian dei Brughi tra libro e naso. Questo sciagurato di Gian dei Brughi s'era così rammollito da prendersi paura anche d'un ragno. Si sentì sul naso quel groviglio di gambe di ragno e filamenti appiccicosi e prima ancora di capire cos'era diede un gridolino di raccapriccio, lasciò cadere il libro e prese a sventagliarsi le mani davanti al viso, a occhi strabuzzati e bocca sputacchiante. Ugasso si buttò a terra e riuscì ad afferrare il libro prima che Gian dei Brughi ci ponesse un piede sopra. «Ridami quel libro!» disse Gian dei Brughi, cercando con una mano di liberarsi da ragno e ragnatela e con l'altra di strappare il libro di mano a Ugasso. «No, prima stacci a sentire», disse Ugasso, nascondendo il libro dietro la schiena. «Stavo leggendo Clarissa, ridatemelo, ero nel momento culminante, sta a sentire». «Noi portiamo stasera un carico di legna a casa del gabelliere. Nel sacco, invece della legna, ci sei tu. Quando è notte, esci dal sacco e io voglio finire Clarissa». Era riuscito a liberarsi le mani dagli ultimi resti della ragnatela e cercava di lottare coi due giovani. «Sta a sentire! Quando è notte esci dal sacco, armato delle tue pistole, ti fai dare dal gabelliere tutto il ricavato delle gabelle della settimana, che lui tiene nel forziere a capo del letto. Lasciatemi almeno finire il capitolo, siate bravi!» I due giovani pensavano ai tempi in cui, al primo che osava contraddirlo, Gian dei Brughi puntava due pistole nello stomaco. Li prese un'amara nostalgia. «Tu prendi i sacchi di denari, va bene?» insistettero tristemente. «Ce li porti? Noi ti ridiamo il tuo libro e potrai leggere quanto vorrai. Va bene così? Ci vai?» «No, non va bene, non ci vado». «Ah, non ci vai? Ah, non ci vai? Dunque sta a vedere allora». E Ugasso prese una pagina verso la fine del libro. «No!» urlò Gian dei Brughi. La strappò. «No, firma!» La pallottolò, la buttò nel fuoco. «Oh, cane, non puoi fare così! Non saprò più come va a finire!» E correva dietro Ugasso per acchiappare il libro. «Allora ci vai dal gabelliere?» «No, non ci vado». Ugasso strappò altre due pagine. «Sta fermo, non ci sono ancora arrivato, non puoi bruciarle!» Ugasso le aveva già buttate nel fuoco. «Cane, Clarissa, no! Allora ci vai? Io...» Ugasso strappò altre tre pagine e le cacciò nelle fiamme. Gian dei Brughi si buttò a sedere col viso nelle mani. «Andrò», disse. «Ma promettetemi che m'aspetterete col libro fuori della casa del gabelliere». Il brigante fu nascosto in un sacco con una fascina sulla testa. Bello Re portava il sacco sulle spalle. Dietro veniva Ugasso col libro. Ogni tanto, quando Gian dei Brughi, con uno scalciare o un grugnire da dentro il sacco, mostrava d'essere sul punto di pentirsi, Ugasso gli faceva sentire il rumore di una pagina strappata e Gian dei Brughi si rimetteva subito a star calmo. Con questo sistema lo portarono travestiti da legnaioli fin dentro la casa del gabelliere e lo lasciarono lì. S'andarono ad appostare poco discosto, dietro un olivo, attendendo l'ora in cui, compiuto il colpo, doveva raggiungerli. Ma Gian dei Brughi aveva troppa fretta. Uscì prima di buio. Per casa c'era ancora troppa gente. «In alto le mani!» Ma non era più quello d'una volta. Era come si vedesse dal di fuori. Si sentiva un po' ridicolo. «In alto le mani, ho detto! Tutti in questa stanza, contro il muro!» Ma che? Non ci credeva più neanche lui. Faceva così, tanto per fare. «Ci siete tutti?» Non s'era accorto che era scappata una bambina. Comunque, era un lavoro da non perdere un minuto. Invece la tirò in lungo. Il gabelliere faceva il tonto, non trovava la chiave. Gian De Brughi capiva che non lo prendevano più sul serio e in fondo era contento che così avvenisse. Uscì, finalmente, con le braccia cariche di borse e di scudi. Corse quasi alla cieca all'olivo fissato per il convegno. «Ecco tutto quel che c'era! Ridatemi Clarissa!» 4, 7, 10 braccia si gettarono su di lui. Li immobilizzarono dalle spalle alle caviglie. Era sollevato di peso da una squadra di sbirri e legato come un salame. «Clarissa, la vedrai a scacchi!» E lo condussero in prigione. La prigione era una torretta sulla riva del mare. Una macchia di pinastre le cresceva dappresso. D'in cima a uno di questi pinastri, Cosimo arrivava quasi all'altezza della cella di Gian De Brughi e vedeva il suo viso all'inferriata. Al brigante non importava nulla degli interrogatori e del processo. Comunque andasse, l'avrebbero impiccato. Ma il suo pensiero erano quelle giornate vuote lì in prigione, senza poter leggere, e quel romanzo lasciato a mezzo. Cosimo riuscì a procurarsi un'altra copia di Clarissa e se la portò sul pino. «Dov'eri arrivato?» «Quando Clarissa scappa dalla casa di Malaffare.» Cosimo scartabellò un poco e poi... «Ah sì, ecco. Dunque...» E cominciò a leggere ad alta voce, rivolto verso l'inferriata, alla quale si vedevano aggrappate le mani di Gian De Brughi. L'istruttorio andò per le lunghe. Il brigante resisteva ai tratti di corda. Per fargli confessare ognuno dei suoi innumerevoli delitti ci volevano giornate e giornate. Così ogni giorno, prima e dopo gli interrogatori, se ne stava ad ascoltare Cosimo che gli faceva la lettura. Finita Clarissa, sentendolo un po' rattristato, Cosimo si fece l'idea che Richardson, così al chiuso, fosse un po' deprimente e preferì cominciare a leggergli un romanzo di Fielding che con la vicenda movimentata lo ripagasse un poco della libertà perduta. Erano i giorni del processo e Gian De Brughi aveva mente solo ai casi di Jonathan Wild. Prima che il romanzo fosse finito, venne il giorno dell'esecuzione. Sul carretto, in compagnia d'un frate, Gian De Brughi fece l'ultimo suo viaggio da vivente. Le impiccagioni a Ombrosa si facevano a un'alta quercia in mezzo alla piazza. Intorno tutto il popolo faceva cerchio. Quando ebbe il cappio al collo, Gian De Brughi sentì un fischio di tra i rami. Alzò il viso. C'era Cosimo col libro chiuso. «Dimmi come finisce», fece il condannato. «Mi dispiace dirtelo, Gian», rispose Cosimo. «Jonathan finisce appeso per la gola». «Grazie. Così sia di me pure. Addio». E lui stesso calciò via la scala, restando strozzato. La folla, quando il corpo cessò di dibattersi, andò via. Cosimo rimase fino a notte, a cavalcioni del ramo da cui pendeva l'impiccato. Ogni volta che un corvo si avvicinava per mordere gli occhi o il naso al cadavere, Cosimo lo cacciava, agitando il berretto. A frequentare il brigante, dunque, Cosimo aveva preso una smisurata passione per la lettura e per lo studio, che gli restò poi per la vita. L'atteggiamento abituale in cui lo si incontrava adesso era con un libro aperto in mano, seduto a cavalcioni d'un ramo comodo, oppure appoggiato a una forcella, come a un banco da scuola, un foglio posato su una tavoletta, il calamaio in un buco dell'albero, scrivendo con una lunga penna d'oca. Adesso era lui che andava a cercare l'abate Fauchelevent perché gli facesse lezione, perché gli spiegasse Tacito e Ovidio e i corpi celesti e le leggi della chimica. Ma il vecchio prete, fuorché un po' di grammatica e un po' di teologia, annegava in un mare di dubbi e di lacune, e alle domande dell'allievo allargava le braccia e alzava gli occhi al cielo. «Messie l'abbé, quante mogli si può avere in Persia? Messie l'abbé, chi è il vicario savoiardo? Messie l'abbé, mi può spiegare il sistema di Linneo? Allora, voyons maintenant», cominciava l'abate, poi si smarriva e non andava più avanti. Ma Cosimo, che divorava libri d'ogni specie e metà del suo tempo lo passava a leggere e metà a cacciare per pagare i conti dei librai orbecche, aveva sempre qualche nuova storia lui da raccontare. Di Rousseau che passeggiava erborizzando per le foreste della Svizzera, di Beniamino Franklin che acchiappava i fulmini con gli aquiloni, del barone de la Hontan che viveva felice tra gli indiani dell'America. Il vecchio Fauchelevent porgeva orecchio a questi discorsi con meravigliata attenzione. Non so se per vero interesse o soltanto per il sollievo di non dover essere lui a insegnare, e assentiva e interloquiva con dei «non, dites-le moi», quando Cosimo si rivolgeva a lui chiedendo «e lo sapete com'è che...» oppure con dei «tiens, ma c'est patent», quando Cosimo gli dava la risposta, e talora con dei «mon Dieu», che potevano essere tanto d'esultanza per le nuove grandezze di Dio che in quel momento gli si rivelavano, quanto di rammarico per l'onnipotenza del male, che sotto tutte le sembianze dominava senza scampo il mondo. Io ero troppo ragazzo e Cosimo non aveva amici che nelle classi letterate, perciò il suo bisogno di commentare le scoperte che andava facendo sui libri lo sfogava seppellendo di domande e spiegazioni il vecchio precettore. L'abate, si sa, aveva quella disposizione remissiva e accomodante che gli veniva da una superiore coscienza della vanità del tutto, e Cosimo se ne approfittava. Così il rapporto di discepolanza tra i due si capovolse. Cosimo faceva da maestro e Fauchelevent da allievo. E tanta autorità mio fratello aveva preso che riusciva a trascinarsi dietro il vecchio Tremante nelle sue peregrinazioni sugli alberi. Gli fece passare tutto un pomeriggio con le magre gambe penzoloni da un ramo di castagno d'India nel giardino di Dondariva, contemplando le piante rare e il tramonto che si rifletteva nella vasca delle ninfee e ragionando delle monarchie e delle repubbliche, del giusto e del vero nelle varie religioni e i riti cinesi, il terremoto di Lisbona, la bottiglia di Leida, il sensismo. Io dovevo avere la mia lezione di greco e non si trovava il precettore. Si mise in allarme tutta la famiglia, si batté la campagna per cercarlo, fu perfino scandagliata la peschiera, temendo che distratto ci fosse caduto ed annegato. Tornò a sera, lamentandosi per una lombaggine che s'era presa a star seduto per ore così scomodo. Ma non bisogna dimenticare che nel vecchio giansenista questo stato di passiva accettazione d'ogni cosa s'alternava a momenti di ripresa della sua originaria passione per il rigore spirituale. E se mentre era distratto e arrendevole, accoglieva senza resistenza qualsiasi idea nuova o libertina, per esempio l'uguaglianza degli uomini davanti alle leggi, o l'onestà dei popoli selvaggi, o l'influenza nefasta delle superstizioni, un quarto d'ora dopo, assalito da un accesso d'austerità e d'assolutezza, si immedesimava in quelle idee, accettate poco prima così leggermente, e vi portava tutto il suo bisogno di coerenza e di severità morale. Allora sulle sue labbra i doveri dei cittadini liberi ed uguali o le virtù dell'uomo che segue la religione naturale diventavano regole d'una disciplina spietata, articoli d'una fede fanatica, e al di fuori di ciò non vedeva che un nero quadro di corruzione, e tutti i nuovi filosofi erano troppo blandi e superficiali nella denuncia del male, e la via della perfezione, seppur ardua, non consentiva compromessi o mezzi termini. Di fronte a questi improvvisi soprassalti dell'abate, Cosimo non osava più dir parola, per paura che gli venisse censurata come incoerente e non rigorosa, e il mondo lussureggiante che nei suoi pensieri cercava di suscitare gli si inaridiva davanti come un marmoreo cimitero. Per fortuna l'abate si stancava presto di queste tensioni della volontà e restava lì spossato, come se lo scarnificare ogni concetto per ridurlo a pura essenza lo lasciasse in balia d'ombre dissolte ed impalpabili. Sbatteva gli occhi, dava un sospiro, dal sospiro passava lo sbadiglio e rientrava nel nirvana. Ma tra l'una e l'altra disposizione del suo animo dedicava ormai le sue giornate a seguire gli studi intrapresi da Cosimo e faceva la spola tra gli alberi dove egli si trovava e la bottega di Orbecche a ordinargli libri da commissionare ai librai di Amsterdam o Parigi e a ritirare i nuovi arrivi. E così preparava la sua disgrazia. Perché la voce che a Ombrosa c'era un prete che si teneva al corrente di tutte le pubblicazioni più scomunicate d'Europa arrivò fino al tribunale ecclesiastico. Un pomeriggio gli sbirri si presentarono alla nostra villa per ispezionare la celletta dell'abate. Tra i suoi breviari trovarono le opere del Beile ancora intonse, ma tanto bastò, perché se lo prendessero in mezzo e lo portassero con loro. Fu una scena ben triste in quel pomeriggio nuvoloso. La ricordo come la vidi sbigottito dalla finestra della mia stanza e smisi di studiare la coniugazione dell'Auristo perché non ci sarebbe stata più lezione. Il vecchio padre Fauchelevent s'allontanava per il viale tra quegli sgherri armati e alzava gli occhi verso gli alberi e a un certo punto ebbe un guizzo come se volesse correre verso un olmo e arrampicarsi, ma gli mancarono le gambe. Cosimo quel giorno era a caccia nel bosco e non ne sapeva nulla. Così non si salutarono. Non potemmo far nulla per aiutarlo. Nostro padre si chiuse in camera e non voleva assaggiar cibo perché aveva paura di venire avvelenato dai gesuiti. L'abate passò il resto dei suoi giorni tra carcere e convento, in continui atti d'abbiura, finché non morì, senza aver capito, dopo un'intera vita dedicata alla fede, in che cosa mai credesse, ma cercando di credervi fermamente fino all'ultimo.